24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Cari amici, cari ascoltatori, buongiorno, bentornati all'appuntamento con 24 mattino. Un saluto da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia laggiù dietro il nostro vetro qui nella sede di Milano. Dunque, primo agosto è arrivato. Una volta il primo agosto, soprattutto quando magari non cascava proprio nel mezzo della settimana, era il grande momento delle partenze, dei blocchi, delle paure, addirittura negli anni, negli ultimi 15 anni. Insomma, agosto, la vacanza che c'è evidentemente anche quest'anno, ma che ha assunto colori diversi, complessi. Innanzitutto, e ve lo anticipo, ne parleremo, poi approfondiremo sicuramente i temi delle vacanze, dell'industria del turismo nei prossimi giorni. Vi anticipo che solamente la giornata di appunto alla fine di questo weekend, cioè il sabato mattino, è considerato un momento completamente critico per i trasferimenti, per le grandi appunto manovre agostane, ma questa è una delle prime conseguenze. Insomma, in qualche modo sono spariti tutta una serie di bollini ad altissimo rischio lungo la via delle vacanze. A proposito di vacanze, più tardi verso le 8:30 parleremo di come in questa estate 2012 abbia anche un forte impatto il connubio sempre più importante tra web e turismo. Prendiamo spunto da un caso che riguarda Celle Ligure, provincia di Savona, dove c'è stata una vera e propria levata di scudi e degli albergatori infuriati per commenti non lusinghieri nei loro confronti comparsi su un appunto portale. Quindi saremo verso le 8:20, torneremo invece in Emilia. Abbiamo un appuntamento questa mattina con il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferrioli, per fare il punto sulla torre. L'avrete visto, l'avrete forse ascoltato anche appunto nei nostri approfondimenti di Radio 24, torre che viene raccolta, torre distrutta dal terremoto di 2 mesi fa, raccolta pezzo per pezzo, ma che racconta anche l'estate di una parte d'Italia che fa i conti appunto con un disastro della portata del terremoto. Tutto questo a partire dalle 8:20 circa, pardon, ma adesso andiamo come sempre alla nostra rassegna stampa. Roma-Parigi, patto per l'euro. Dunque, ieri l'uscita dal tunnel, la frase del Premier Monti che dice vicino alla fine del tunnel, è stato un po' la parola d'ordine, il refrain della giornata. Dopodiché altro è accaduto, sostanzialmente il no ribadito da Berlino alla licenza bancaria per l'ESM. I mercati dunque hanno cambiato segno. Il Sole 24 Ore oggi apre su quello che poi è stato l'incontro del pomeriggio. Dunque Monti Hollande, Monti a Parigi all'Eliseo, Roma a Parigi, patto per l'euro, e aggiunge telefonata tra il Premier e Obama. Questo il titolo. Subito le misure per l'euro per il Messaggero, e così per la Stampa, che dice Roma-Parigi, asse per l'euro. Invece Repubblica parla di un altro tema, che è quella del fisco. I dati della GDF, della Guardia di Finanza, ieri regolare il 38% degli scontrini. La Guardia di Finanza annuncia campagna di fatto negli stabilimenti balneari e nelle città d'arte. Insomma, anche questa è la vacanza 2012. Il titolo d'apertura è fisco, scatta dunque la campagna di agosto. Quanto riguarda invece il Corriere della Sera, l'apertura è difendere l'euro e basta ritardi. In alto, nel taglio alto, una fotografia. Ieri abbiamo parlato del grande blackout indiano. Era un blackout, quello dell'altro giorno, da 350 milioni di persone coinvolte. Beh, nel frattempo, proprio mentre parlavamo, un altro blackout ha coinvolto praticamente il doppio della popolazione indiana, tant'è che questa mattina la fotografia di un barbiere che lavora con una candela nella mano sinistra e un rasoio nella destra, un esercizio, come dire, delicato e pericoloso sul collo di un cliente, è un appunto accompagna un titolo che dice: in India il più grande blackout, 700 milioni di persone restano al buio, colpiti 22 stati. Nel frattempo, lo abbiamo sentito anche in GR24, la situazione sarebbe ritornata alla normalità, ma naturalmente attendiamo, come dire, sviluppi. Ancora le prime pagine per il Manifesto è cattive vacanze e mentre per il Giorno è l'agosto dello spread, estate poche partenze, più cari le piscine e i servizi in città. Oggi c'è un fiorire di articoli sulla riscoperta diciamo di soluzioni a minore impatto economico per trascorrere le vacanze, quindi la riscoperta di secondo in particolare Messaggero delle seconde case lungo il litorale romano, le case di famiglia, i rifugi, insomma un ripensamento collettivo di questo periodo. L'Unità invece si occupa nel titolo d'apertura di Bersani. Bersani sfida per il governo, il leader del PD presenta la carta degli intenti, noi siamo pronti. Mentre per il giornale di Alessandro Sallusti, il titolo d'apertura è questo: così ci spiano in banca, Monti è il poliziotto fiscale, e aggiunge il giornale: così possiamo provare a difenderci. Nel taglio basso una telefonata, un articolo a firma di Fausto Biloslavo sullo ostaggio italiano al telefono con il giornale, parla il carabiniere rapito, un percorso, come dire, rocambolesco e fortunoso raccontato da Fausto Biloslavo, che entra in contatto con il carabiniere rapito, che aveva diciamo comunicato le sue condizioni per quanto possibile attraverso un SMS. Ancora il Secolo XIX è invece la Sicilia in prima pagina. Sicilia, si vota ottobre, Lombardo lascia con uno schiaffo al premier, bocciati tutti i tagli. Mentre nel centro pagina del giornale del quotidiano di Genova c'è una fotografia che racconta una molto animata riunione in consiglio comunale. AMT ai privati, insulti a Doria. Doria il sindaco, AMT e la società dei trasporti pubblici genovese, taglia al personale stipendio, esplode la rabbia dei lavoratori, via libera alla privatizzazione. In un'aula diventata bolgia per le contestazioni dei dipendenti AMT al sindaco, il consiglio comunale ha detto sì all'operazione per salvare l'azienda dei trasporti dal crack. Disco verde anche a riduzione del personale e stipendi, aumento di turni di guida, nuovi tagli di servizio. Anche questo è l'estate 2012. Abbiamo ancora qualche momento prima di sentire insieme il meteo, che visto da qui sembra diciamo procedere come nei giorni scorsi, ma naturalmente staremo a sentire le notizie che ci arrivano dall'intero territorio nazionale. Dicevo, ancora Avvenire parla di dietro front tedesco, la Germania ora frena sulla licenza bancaria per il fondo salva stati, mentre i disoccupati italiani sono al 10,8%, ma il premier vede la fine del tunnel. Per il Fatto Quotidiano è bavaglio, il CSM prepara la legge Napolitano, il vicepresidente Vietti incontra il capo dello Stato, poi dice al Fatto: top secret le parole dei soggetti terzi intercettati ma non indagati. Dunque il Fatto prosegue la sua diciamo azione, la sua campagna su questo tema. Infine La Padania, Monti dei fiaschi, la voce del nord dice: Monti dei fiaschi, il premier si autoassolve, nega il disastro, mentre disoccupazione è al nuovo massimo storico, 2,8 milioni a giugno, ma il professore non si preoccupa, anzi dichiara che se lo spread sale è colpa dei partiti che litigano, mentre Maroni dice, replica, pensi piuttosto a creare dei posti di lavoro. Bene, adesso meteo, torniamo insieme tra qualche minuto. In primo piano. 7:33 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Anders Golding avrebbe forse meritato l'oro, visto che lo porta nel cognome, ha avuto l'argento, ma nel frattempo si è assicurato l'affetto, riteniamo imperituro, di un'intera città, e mi riferisco a Taranto. Oggi sul Sole 24 Ore da una pagina interamente dedicata al caso Ilva, nel taglio basso, caso Ilva che approda alle camere, questa questa l'apertura, il titolo d'apertura della pagina. Dicevo, nel taglio basso invece sul podio con tutti gli operai nel cuore. Anders Golding, falegname danese, ieri argento olimpico a Londra, si allena nel poligono accanto all'acciaieria. A 28 anni, è di Aalborg in Danimarca. Mirava i piattelli, ieri durante la gara di tiro a volo specialità skitta ai giochi di Londra, ma il suo cuore guardava più lontano, a chilometri di distanza fino a Taranto, così lontano dagli occhi, così vicino al cuore. Insomma, ha conquistato la sua medaglia e l'ha dedicata ai lavoratori dell'Ilva. Ha detto: è un peccato ciò che succede, mi spiace veramente, spero che la situazione si possa ancora risolvere. Questo perché Anders Golding, come ha raccontato, trascorre almeno un paio di mesi l'anno nel mite clima, lascia la sua Aalborg, peraltro racconta che divide buona parte del suo tempo della vita anche con la Norvegia, quindi a maggior ragione si sposta nel sud per appunto portare avanti quel suo sogno sportivo che gli ha meritato la medaglia d'argento. Ecco, intanto però, se c'è questo aspetto, ieri abbiamo parlato delle storie continue che i giochi olimpici producono, beh, sicuramente questa ha un suo spazio. Dicevo però, intanto la città continua ad affrontare il caso Ilva. Così oggi il Ministero degli Ambienti e Clini riferisce ai parlamentari sulla situazione d'emergenza del polo siderurgico. Intanto i vertici del gruppo si avvalgono della facoltà di non rispondere in attesa del riesame. Oggi nella pagina d'apertura di Imprese e Territori del Sole 24 Ore si ricorda tra l'altro una sequenza di numeri, di quelli che sono i numeri chiavi, a cominciare dai 15.000 gli occupati dipendenti diretti a Taranto, 5.000 quelli a rischio, e dall'80% dell'attività portuale, che è il peso che appunto l'attività dell'Ilva ha sull'attività completa del porto di Taranto, ma anche le 20 milioni di tonnellate di materie prime che gli stabilimenti sono in grado di trasformare, il miliardo speso tra il 95 e il 2009 per l'ambiente, su un totale di investimento di 4,2 miliardi, e infine 15 milioni di metri quadrati la superficie di questo enorme impianto. Ma noi torniamo ai titoli, diciamo al tema di apertura, quindi alle misure per l'euro, all'uscita dal tunnel che poi viene gelato immediatamente da quello che ancora sul Sole 24 Ore oggi a pagina 5 nel suo titolo d'apertura è l'ostruzionismo di Berlino, quelle schermaglie continue che schiacciano i mercati. L'esempio, scrive Vittorio Carlini, lo si è avuto proprio ieri: da una parte il premier italiano Monti e il presidente François Hollande che invocano l'utilizzo dello scudo antispread, dall'altra l'esecutivo di Berlino che esclude la licenza bancaria per le ESM. La domanda tra gli operatori, non solo, infatti, resta comunque la stessa da ormai da qualche giorno. Il presidente Mario Draghi, dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, sarà in grado di concretizzare il famoso firewall, cioè sarà in grado di dare corpo, sostanza all'affermazione appunto che per la quale avrebbe la Banca Centrale Europea, attraverso il presidente Draghi, sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa per salvare l'euro, oppure tutto svanirà tra il distinguo dei falchi del rigore della Bundesbank, in attesa di vedere le carte di Eurotower. I mercati ieri hanno analizzato i dati macro statunitensi per leggere i fondi di bicchiere. La Fed, la Riserva Federale, infatti oggi dirà la sua nella politica monetaria. Insomma, di questa Europa, delle sue sofferenze, delle sue difficoltà, voglio, come dire, condividere con voi almeno un paio di interviste. La prima, un francese, un politologo direi storico, che da 20 anni naviga nelle contraddizioni della Francia, il suo paese e non solo. Mi riferisco a Jacques Attali. Attali dice: solo il federalismo salverà l'Europa. Basta sostanzialmente, dice Attalia, aggrapparsi sempre alla BCE, basta con le demagogie dei governi, non possiamo perennemente aggrapparci a un intervento della banca centrale. E aggiunge, la BCE interverrà, ne sono certo, ma non può fare da sola. Tocca ai politici decidere, la decisione è una sola, il federalismo. Insomma, questo passaggio che viene evocato in questi giorni anche in chiave sportiva, si parla molto dell'assenza, è normale, ma voglio dire, si comincia a parlare qualcuno comincia a invocare una squadra europea e non appunto delle nazioni che lo compongono. Intanto il federalismo rimane lontano, molto lontano sullo sfondo. Monti chiede, Francesca Pierantozzi a Attali, ha detto che si vede la fine del tunnel, lei la vede? Molte cose, dice, sono state fatte, l'accordo di fine giugno è un accordo ottimo, se questa dinamica continua l'Europa ce la farà, ma adesso bisogna davvero passare all'azione, cioè creare condizioni di una vera condivisione europea, che per la Germania significa aumentare i salari, per gli altri più rigore e per tutti una solidarietà più solidale attraverso la creazione esplicita di un federalismo dell'eurozona. Punto di vista diverso, ma il tema è lo stesso, richiamato in prima pagina questa mattina su Repubblica, e invece il punto di vista di Paul Krugman, quindi un punto di vista americano, il titolo che lo accompagna è lo strano volo del calabrone euro. Il calabrone è una metafora utilizzata dallo stesso Draghi per appunto indicare per quanto sia strano l'euro, proprio come il calabrone, che appare del tutto inadatto ad affrontare l'aria, lo ha fatto anche molto bene in passato. L'euro, infatti, aveva detto, come un calabrone, è un mistero della natura, non potrebbe volare, eppure vola. L'euro ha volato benissimo per anni. Ora però, si interroga Krugman, che ha smesso, cosa bisogna fare? E bisogna trasformarlo. La metafora portata avanti poi da Draghi, che dice l'euro deve trasformarsi in ape, secondo Krugman è imperfetta, ma resta comunque da salvare il messaggio. Nel lungo periodo l'euro potrà funzionare solo se l'Unione Europea assumerà la caratteristica di un paese unificato. Di nuovo, quindi, punti di vista diversi. Tra l'altro nello sviluppo, appunto, le riflessioni a Attali Krugman sono molto lontane, come le scuole di pensiero di questi due esponenti portano di fatto a sviluppare, ma rimane sul fondo questo concetto. Ancora si chiede per quale motivo il calabrone per un po' è riuscito a volare, si chiede Krugman, perché nei primi 8 anni o giù di lì l'euro all'apparenza ha funzionato, perché le magagne strutturali della moneta unica sono state nascoste dal boom del sud dell'Europa. L'introduzione dell'euro rassicurò gli investitori, convincendoli a prestare denaro a paesi come Grecia e Spagna, precedentemente considerati a rischio, quindi rischi che non nascono oggi ma che erano già parte della storia passata. Così il denaro affluì, soprattutto, detto per inciso, per finanziare prestiti privati più che pubblici, fatta eccezione per la Grecia. La riflessione è lunga, vado solo al capoverso finale. È possibile salvare dunque l'euro, si chiede Krugman? Probabilmente sì, va salvato, si dice, anche se ora come ora averlo introdotto sembra un grosso errore, perché il crollo dell'euro non provocherebbe solo un disastro economico, sarebbe un colpo micidiale per il più ampio progetto europeo che ha portato pace e democrazia in un continente dal tragico passato. A proposito di passato tragico e di questo aspetto che in questo periodo, in questa fase storica, viene data per scontato e francamente negletta, su quello che è il lavoro appunto sociale dell'Europa, vi segnalo un interessante confronto intorno all'Europa che viene portato avanti questa mattina dalla Stampa, infatti con un richiamo in prima pagina. Da una parte la Catalogna in crisi con i suoi stipendi a rischio, dall'altra la Finlandia, la patria del rigore che paga. E da una parte, appunto, mi soffermo più sulla Finlandia, dice: noi non pagheremo per le cicale, con la crisi cresce il sentimento nazionalista che premia la destra populista, racconta Alessandro Barbera, inviato a Helsinki. E poi in un'intervista un, appunto, un esponente della cultura finlandese dice: i finlandesi non sono europeisti per vocazione, semmai, crollata l'Unione Sovietica, hanno trovato nell'Europa un'occasione di rilancio e magari anche di rassicurazione, mi permetto di aggiungere. Con lo stesso pragmatismo, però, i finlandesi sarebbero capaci di uscire dall'euro. Perché trovo interessante questo passaggio? Perché il concetto, il valore dell'Europa all'interno, soprattutto di quelle che sono, diciamolo, le frontiere esterne, quindi la Finlandia da una parte che si apre sul grande mondo slavo e russo, non possono limitarsi alle considerazioni economiche, per Bacco, prioritarie, non sia mai detto in questa fase, ma insomma riguardano una storia di un continente che nel secolo scorso, insomma non sto a farvi lezioni di storia prima mattina, ha conosciuto due grandi guerre mondiali e molti altri conflitti, non dimentichiamo ancora l'ultimo della Bosnia, ancora fresco per chi l'ha vissuto, e che oggi fonda anche in questo caos organizzativo che è l'Unione, insomma, la base di una stabilità che non si era mai vista prima. E allora ecco che anche magari gli interessi della Finlandia, dei suoi legittimi, le sue legittime preoccupazioni per le cicale, che poi saremo noi, insomma, le cicale che spendono più del dovuto, forse devono essere contestualizzate. Dall'altra parte, visto che ve l'ho citato, e con questo concludo questa parte, la Spagna, insomma la Catalogna, a luglio niente stipendi, scrive Carlos Perez de Rosas in un'analisi sulla crisi della Catalogna. Al calendario ha giocato un brutto scherzo alla Catalogna. Nel giorno in cui si commemorava il 20° anniversario dei giochi di Barcellona, il governo regionale, sempre geloso della sua autonomia, si dichiarava pronto a chiedere aiuto alla Spagna per pagare gli stipendi. In parallelo, il Parlamento catalano ragionava sulla necessità di strappare a Madrid molta più indipendenza. Anche questa Europa, che questi sono un po' i paradossi del nostro tempo. Visto che parliamo di indipendenza e autonomie, adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade italiane, poi ripartiamo dalla regione Sicilia. A tra poco. In primo piano. 7:46 minuti, ancora un buongiorno a chi si fosse messo in ascolto ora da Gigi Donnelli, da Peter Bescapè. Dunque, Lombardo lascia timore per i conti, questo è uno dei molti evidentemente titoli che vengono dedicata. La Sicilia vota a ottobre per Repubblica, Lombardo lascia la presidenza ma prima nomina due assessori per il Corriere della Sera. Insomma, la Sicilia è rimasto in sella per 4 anni, mandando all'opposizione la maggioranza che nel 2008 lo aveva portato al governo della Sicilia, e alleandosi con la minoranza che quelle elezioni aveva perso. Questo è un frammento del percorso del governatore Raffaele Lombardo, raccontato da Palermo sul Sole 24 Ore da Giuseppe Oddo. Raffaele Lombardo, scrive Oddo, ha mostrato un'intelligenza e una spregiudicatezza politica fuori dall'ordinario, è riuscito a spaccare il PDL del 61-0, della storica vittoria del 61-0, facendo leva sulle ambizioni autonomistiche di Gianfranco Micichè, e a ottenere il sostegno del PD grazie all'asse di ferro con Giuseppe Lumia e Antonio Cracolici. Ha intuito e cavalcato il malessere di Fini verso Berlusconi, facendo del presidente della Camera uno dei suoi alleati. Lascia però una regione finanziariamente al collasso, divorata da una crisi di liquidità senza precedenti. Certo, non se ne può attribuire la colpa per intero al suo governo. La dissipazione della spesa pubblica da parte di chi l'ha preceduto ha pesato come un macigno sulla presidenza, eccetera. Ma Lombardo è stato organico a quel sistema di potere, vi ha preso parte attivamente proprio negli anni d'oro del cuffarismo. Ecco i dati, i numeri che vengono riportati, numeri pesanti, quelli indicati appunto nel boxino qui a pagina 16 sul Sole 24 Ore questa mattina. 15,7 miliardi sono i residui attivi, sono crediti accertati ma non riscossi dalla regione Sicilia, rappresentano una delle zone d'ombra dei conti dell'ente. La regione siciliana non riscuote somme per un ammontare così ingente, pur a fronte di una situazione di illiquidità e di oggettive difficoltà finanziarie. 15,7 miliardi. di euro ovviamente. 400 milioni invece è il buco, secondo il commissario che esercita il controllo di legittimità sulle leggi approvate a Palazzo dei Normanni. Al bilancio corrente mancherebbero tra 400 e 450 milioni per la sopravvalutazione di alcune poste, valorizzazione degli immobili e introiti fiscali. Ecco che chissà, magari ispirandosi anche a quest'ennesima storia italiana in cui ieri abbiamo sentito anche parlare nell'intervento di addio, si fa per dire, perché insomma su questo poi è un addio molto relativo anche in questo caso, ma dicevo nell'intervento di Lombardo si parla di attacco alle autonomie, non posso non pensare al contempo a quello che la Catalogna fa in queste ore, quindi una regione con un'autonomia di cui tante volte ha esaltato, ha forzato anche un orgoglio nazionalista che da una parte chiede più autonomia, dall'altra chiede più soldi a Madrid. E dicevo, chissà, magari pensando, ispirandosi anche a questo grande mondo della politica che oggi Massimo Gramellini scrive il suo Buongiorno, si fa per dire, sulla Stampa di Torino, il titolo è Non se ne vogliono andare ed è Fatico ad appassionarmi al dibattito sulla legge elettorale, non me ne sfugge l'importanza e credo di aver colto persino io le differenze tra Porcellum e Provincellum, oltre alle meraviglie del modello israeliano, purché corretto alla norvegese con una spruzzata di spagnolo. Il problema, scrive Gramellini, è che applicarlo saranno sempre i politici italiani, ai quali dell'efficienza del sistema interessa fino a un certo punto. Ciò che li ossessiona davvero è trovare un modo per non perdere il posto, sottraendo agli elettori la scelta degli eletti alla base dei partiti, quella dei candidati. Osservata da fuori, la pantomima sterile di queste settimane, ovviamente sulla legge elettorale, non è solo l'ultimo rantolo di una corte di parassiti chiusi nel castello dei propri privilegi e insensibili al dramma cupo che si sta consumando sull'altra sponda del fossato, nelle famiglie, dove magari lui è cassa integrato, lei esodata, i figli disoccupati e la seconda rata dell'IMU incombe. Appare come la dimostrazione plastica dell'impotenza di un ceto politico mediocre che non accetta nemmeno come ipotesi l'idea di andarsene a casa. Dall'inizio del governo Monti hanno avuto 9 mesi per recuperare l'onore perduto con un gesto qualsiasi di buon senso, quale per esempio sarebbe stato il dimezzamento del numero dei parlamentari. Ma se non riescono a risolvere in tempi rapidi e in modi decenti nemmeno le questioni che le riguardano da vicino, tremo all'idea di cosa potrebbero combinare, anzi non combinare, il giorno in cui venisse loro riaffidata la gestione di uno Stato. Massimo Gramellini questa mattina sulla Stampa ovviamente e Cattive vacanze, vi avevo letto tra i titoli dei quotidiani in edicola, Cattive vacanze con una fotografia appunto molto direi classica, in questo caso sono 4 bagnanti al sole, in questo caso era il Manifesto, vacanze di cui parleremo, come vi ho anticipato, più tardi a partire dalle 8:30 anche sul turismo, diciamo, fai da internet, su come la rete condizioni, aiuti da una parte, ma indirizzi anche le nostre scelte per la spesa vacanza tempo libero, anche alla luce di alcune proteste che arrivano dalla Liguria, albergatori infuriati per i commenti poco lusinghieri e dubbi sollevati sui meccanismi appunto di raccolta di questi commenti. Ma intanto la domanda che vi anticipo, insomma, è che se avete voglia potete condividere con noi a partire dalle 8:30 circa all'800 24 00 24 e quanto vi fate condizionare, quanto usate lo strumento, ma soprattutto quale rispondenza trovate una volta che la vostra scelta è stata fatta, che la vostra vacanza è stata vissuta e consumata. Trovate sempre affidabilità nella rete per le vostre scelte? Ecco, questo è una domanda che vorrei appunto condividere con voi e sentire i vostri pareri più tardi. Ma vi dicevo, casa vacanza a prezzi scontati al mare spendendo la metà, vi avevo anticipato dal Messaggero, che racconta come comunque sia un'estate di poche prenotazioni sulla costa, prezzi in calo anche del 40%, una notizia appunto che viene richiamata dalla prima pagina in un servizio a cura di Elena Castagni. In Puglia e in Calabria si segnala, si trovano oggi bilocali anche a 100 euro a settimana. A Porto Cervo tanti affittasi, in Sicilia gli affari migliori. Ecco, come poter avvantaggiarsi di questa possibilità, di fatto, di questo calo della richiesta? Un vantaggio che, spiega la Castagna, interessa al 14% dei vacanzieri, quelli cioè che sceglieranno dove andare solo all'ultimo momento, solo in queste ore. Se è vero che nel suo complesso il mercato delle case vacanza sta vivendo un anno ottimo, addirittura in crescita, dice Francesco Lorenzani, responsabile di un sito appunto specializzato in questo settore, in alcune aree le prenotazioni sono più scarse. Peculiare la situazione della Costa Smeralda, in cui nella fascia media di affitto, per cercare di contrastare la fuga dei turisti, si applicano ad agosto sconti last minute fino al 40%, vale a dire almeno 100 euro in meno in un giorno, e non è l'unico caso. E ribadiamo, fascia media, mentre la fascia lusso non subisce flessioni, appunto quella media invece colpito. La case dunque ci sono, le offerte si moltiplicano, e anche questo ci riporta a quello che poi sarà il nostro tema più tardi. Insomma, chi dovesse decidere proprio in queste ore quale sarà magari il suo impegno per una settimana, due settimane nel mese che comincia oggi, molto probabilmente lo farà affidandosi alla rete, lo farà magari a qualcuno con il passaparola, ma insomma per molti, e proprio in questo momento dell'anno, la rete diventa particolarmente importante, ed è da qui, come vi ho anticipato, che ripartiremo da questo tema a partire dalle 8:30. Avremo con noi l'assessore al turismo di Celle Ligure, ma anche il portavoce, uno dei più grossi portali di turismo, ma è anche appunto uno di quelli che di fatto dà ampio spazio a quelli che sono i commenti individuali che vengono dalla rete, uno specialista del sistema internet. Tutto questo alle 8:30, alle 8:20 ve lo anticipo, il sindaco di Finale Emilia sarà invece nostro ospite per fare il punto sulla situazione oltre due mesi dal terremoto. Bene, 7:56 minuti, è tempo per ora di lasciarci. GR24 è pronto tra qualche istante, e noi appunto ci sentiamo più tardi, a dopo. 24 mattino, estate. 8:20 minuti in questo istante, ancora un saluto a tutti voi da Gigi Donnelli. Dunque, 24 mattino estate di questo primo agosto, si parla naturalmente, l'abbiamo fatto nella rassegna stampa, lo faremo tra poco, di vacanze. Roberto da Verona ci scrive, per esempio: è da anni che prenoto le vacanze su internet, trovo sempre nomi, sempre risparmiando anche fino al 50%. Ma a Roberto, tutti voi chiedo, quanto valgono per voi i commenti lasciati appunto da altri utenti sul web? E questo è in fondo il tema centrale che andremo ad affrontare tra poco. Prima però, come vi ho anticipato, torniamo in Emilia, salutiamo questa mattina il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, io segnalo subito sos.comunefinale.net. Su questo sito c'è un'immagine davvero simbolo di questo fenomeno sismico, e quella costruzione, quello che resta della torre in terracotta rosa da una parte, dall'altra si vedono le argille scure, i pezzi di ferro dell'orologio e della campana. Sempre nella home page di questa pagina di fatto del comune di Finale, no, sindaco, c'è l'effetto poi del crollo, le macchine schiacciate e poi un cumulo impressionante di pezzi di quello che la torre era. Allora, ripartiamo da qui, tenendo conto che proprio questa mattina, peraltro, alle 9:30 arriva al voto il decreto legge, oggi con la fiducia in Senato, appunto il decreto terremoto. Sindaco, ripartiamo da quell'immagine, dal lavoro che state facendo. Voi a un certo punto avete deciso, questa torre si ricostruisce e per prima cosa bisogna rimettere insieme i pezzi. Esattamente, come ho sempre detto fin dalla prima volta che ho visto purtroppo la mia città distrutta, ho detto e ho promesso a tutti i miei cittadini che l'avremmo ricostruita. Ovvio che non potremo ricostruire come prima tutto, palazzi enormi del 1600 che sono venuti giù, o del 1400, sanno, molto difficile da ricostruire, a meno di uno sforzo incredibile da parte dei privati e da parte dei fondi per la ricostruzione, quindi non è questo sicuramente che dovremmo comunque pensare in questo momento. Ovvio che abbiamo la casa e il lavoro come prime assolute priorità, ma il ricostruire l'identità di un paese che è il nostro paese, il nostro territorio, e la nostra identità era anche quel simbolo, era anche quella torre che compiva 800 anni nel 2013, perché era il simbolo della città nuova nel 1200, quando si è spostata lungo il fiume Panaro, si è spostata dal primo nucleo medievale del 1000 circa, e quindi lì nel 1213 i modenesi eressero appunto questa torre, è stata lì per 800 anni. La torre dei Modenesi, dunque, per questo è stata scelta anche dal Time Magazine, tra l'altro, per rappresentare in una forte immagine, appunto in una fotografia, quello che è il terremoto, quello che è stato il terremoto in Emilia. Quindi ricostruire per, come dire, conservare l'identità? Esatto, conservare l'identità e dare un segnale anche, dare un segnale a tutti quelli che stanno vivendo e hanno vissuto questo tremendo incubo che è il terremoto, che ha distrutto appunto le nostre case, il nostro lavoro, ma anche le nostre città, è quello di rinascita, di vedere un futuro ricostruendo anche il nostro passato. Ecco, quante persone stanno letteralmente, ci stanno mettendo le mani in questo enorme cumulo di macerie che diventa invece una sorta di ordinato sistema di catalogazione? Sono centinaia e centinaia di volontari che provengono da tutta Italia, per lo più ragazzi giovani, e devo dire che questo dimostra come in realtà tanti luoghi comuni, spesso e volentieri sono luoghi comuni. Per carità. Non ha senso. Ma questo dimostra anche come l'Italia sia un'Italia veramente un paese meraviglioso. Al di là delle beghe politiche, delle divisioni, il palazzo e tutto quello che succede normalmente durante delle giornate. Ecco, normalmente nella realtà che lei sta vivendo le persone vengono a darvi una mano. Tra l'altro comunefinale.net, ve l'ho già citato proprio a metà pagina, AAA Volontari Cercasi, cioè il lavoro è in corso, un primo passo verso la ricostruzione, una richiesta del comune, aiutateci a recuperare i mattoni. E c'è una spiegazione, per chi volesse proporsi come volontario può scaricare il modulo sottostante, vi ricordo sos.comunefinale.net, tutte le indicazioni, una cosa ordinata, diciamo, alla modenese, ma giusto, perché tutti i volontari devono anche essere in qualche modo anche protetti da un'assicurazione, perché possono anche farsi male, quindi lavorare sotto insomma in mezzo delle macerie, in mezzo dei mattoni, e comunque può essere pericoloso, insomma, per modo di dire, cioè non è che ci si rischia la vita, ma magari un dito di un piede sì, quindi alla fine il discorso è tutto lì, quindi deve essere ordinato e preciso, ma deve anche andare veloce, quindi ricordiamo che abbiamo quasi finito la Torre dei Modenesi, la raccolta e catalogazione, abbiamo però purtroppo da fare tanto ancora per tutte le nostre chiese, tutti i nostri palazzi e soprattutto il Castello delle Rocche, quindi in effetti c'è ancora tanto da fare. Solo la torre, quanti pezzi saranno alla fine? Non ha fatto il conto. Faccia conto che sono doppia murature per 37 metri di torre, quindi messi giù sono un'enormità, non pensavo veramente così tanti, ma non voglio immaginare quando andremo attorno al mastio del castello di 40 metri quante di pietre dovremo recuperare, ma e anche da un punto di vista proprio di voglia di ricominciare è un simbolo veramente forte. Tra l'altro i cronisti che si diciamo alternano intorno a questo gruppo appunto di lavoro raccontano che a volte spuntano punte di lance, dardi, pietre con iscrizioni, insomma piccole cartoline dalla storia, alcune stampe. È anche un certo drammatico modo per rafforzare questo legame, questi 8 secoli che appunto la torre avrebbe dovuto compiere l'anno prossimo. Sì, è una cosa veramente incredibile quante tracce riusciamo a trovare. Abbiamo trovato una scarpa del 1500 circa di donna, abbiamo trovato il piedino di un bimbo che era stato appoggiato su un mattone mentre veniva costruito nel 1200. Quindi ci sono segni di vita nella vita dei nostri avi, dei nostri antenati che hanno costruito la nostra città e la nostra identità, che hanno lasciato lungo il percorso di vita di questi 800 anni. Questa vita che continua, visto che siete appunto anche attraverso questa bellissima iniziativa. Sindaco, qualche giorno fa una diciamo buona notizia, oggi ho citato il decreto legge arriva in Senato sulla ricostruzione, naturalmente ci vogliono soldi, ci vuole un investimento che poi fondamentalmente è quello legato al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate che prevede 2,5 miliardi di euro, ci vuole la partecipazione e ci vuole l'impresa. Dicevo, qualche giorno fa la notizia positiva era 2 imprese su 3 hanno riaperto. Vorrei chiederle di quella impresa su 3 che non ha riaperto e qual è la situazione nel vostro territorio. Sì, spesso e volentieri si danno dei numeri, però bisogna anche estrapolarli. Adesso io non so come hanno fatto a calcolare 2 imprese su 3, che non è così semplice neanche per me che vivo qua sul territorio capire esattamente quante partono, quante non partono. Io so che ancora gran parte delle nostre aziende purtroppo sono chiuse, hanno subito milioni e milioni di danni. Ricordo che i 2,5 miliardi sono una piccolissima parte di quello che sono i danni, perché la Protezione Civile ha mandato su per la richiesta del fondo di emergenza europeo la bellezza di richiesta di 13,5 miliardi di danni. Quindi questo è tanto per far capire quanto in realtà i danni ci sono e sono pesantissimi a livello generale. Noi abbiamo aziende che hanno subito nel nostro piccolo, perché non siamo Milano o grandi poli industriali, però insomma abbiamo un grosso polo ceramico, ha subito anche 30 milioni di danni in una sola azienda, con 2 anni di fermo macchina. Quindi il problema è che appena ieri, se non sbaglio, mi hanno detto che è stato mandato, perché purtroppo non riesco sempre a leggere il giornale, anzi mai purtroppo, il problema deriva dal fatto che è stato mandato una lettera dal reparto tessile, grandissimo polo tessile di Carpi, una lettera a Monti dicendo abbiamo bisogno di far partire, perché in tutta la filiera si è bloccata sui piccoli. Quindi noi il grosso problema ce l'abbiamo sui piccoli, sugli artigiani, su quelli che gli è venuto giù il capannone e non hanno la forza di riprendersi. Quindi noi abbiamo bisogno di velocizzare queste cose. Per questo che io spero oggi che chiudiamo definitivamente questo capitolo per far arrivare subito i soldi, perché quello che ci serve adesso è quello di far partire l'economia, e a settembre deve ripartire tutta l'economia. Ricordo che questo territorio, da Carpi a Sant'Agostino, produce 30 miliardi di PIL all'anno, il 2%, e paga più di 10 miliardi di tasse. Quindi questo è quanto per far capire quanto è investimento su questo, in realtà, su questo territorio per farlo ripartire. Non è un buco nero dove ci si mette dei fondi tanto per farci vivere e guardare il cielo. Non siamo fatti così. Grazie al sindaco di Finale Emilia, naturalmente provincia di Modena, Fernando Ferrioli, di essere stato con noi. Come abbiamo ricordato, come ha ricordato il sindaco in queste ultime parole, oggi ci si attende la chiusura di un capitolo, l'accelerazione di un meccanismo. Intanto noi voltiamo pagina, tra poco dunque parliamo di vacanze, ma in chiave web, e di quanto i commenti che troviamo navigando sulla rete condizionino, e naturalmente se e come questi commenti possano essere orientati, manovrati addirittura. Ne parliamo subito dopo questa breve interruzione. 24 mattino, estate. 8:32 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli questa mattina al microfono, mentre il nostro Alessandro Milan si gode le sue meritate vacanze. Quindi passeremo le prossime 3 settimane insieme. Elisabetta Fusconi questa mattina, come sempre, in assistenza, Peter Bescapè in regia. Dunque il nostro, diciamo, ultimo capitolo per questa giornata parla di turismo, di vacanze, ma anche di rete, e lo spunto ci arriva da quella che insomma è apparsa come una vera e propria protesta. Un titolo tra i vari articoli usciti nelle ultime ore dice: se gli alberghi della Liguria contestano i voti della rete, non sono i primi, lo anticipiamo. Gli ultimi in ordine di tempo, infatti, dice, sono gli albergatori di Celle Ligure, arrabbiati, compatti, sono tornati ad attaccare TripAdvisor, il portale dove sono i clienti a consigliare o sconsigliare hotel e ristoranti ai nuovi viaggiatori. Insomma, polemica su questo tema. E allora cominciamo da Celle Ligure, con cui ci colleghiamo. Abbiamo con noi l'assessore al turismo della cittadina, Paolo Guastavino. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della vostra radio. Grazie. Che succede a Celle Ligure? Allora, c'è davvero una... Innanzitutto, come va la situazione? Gli alberghi sono pieni? Beh, purtroppo, come tutti sanno, la congiuntura economica è tale che, insomma, riempie tutti gli alberghi. Ok, allora ci dia però una percentuale, se non sono... Io speravo, è sempre l'auspicio di sentirmi dire va tutto bene. Diciamo che gli alberghi hanno una forte richiesta nel weekend, però purtroppo durante la settimana ci sono camere vuote. Quindi settimane leggere e weekend invece in recupero. Allora, veniamo al nostro tema. Celle Ligure contro TripAdvisor? Ma no, per carità, noi non siamo contro nessuno, assolutamente. Anzi, internet è sicuramente un'ottima vetrina per tutti, però purtroppo il lato negativo di questa cosa è il fatto che appunto non c'è un controllo sulle segnalazioni, su quello che viene scritto, di conseguenza bisogna prenderlo un po' con le molle. Ecco, a proposito del controllo, adesso non abbiamo, diciamo, tempo di fare letture, ma i commenti che abbiamo letto in queste ultime 24 ore, la sintesi è che si lamenta poco servizio, strutture vecchie, insomma le classiche proteste che poi quando qualcuno comunica un luogo di vacanza a un altro normalmente dice beh il posto è bello o non è bello e fin lì tutto tranquillo, la struttura sì, anche abbiamo registrato anche tra chiaramente gli amanti della località insomma un po' il disappunto per delle strutture che non sarebbero all'altezza, ma fondamentalmente lei come recepisce, perché dice non c'è controllo, quindi ritiene che siano sbagliate queste segnalazioni non ritengo. Io dico semplicemente che purtroppo queste segnalazioni non subiscono nessun controllo, non hanno nessun filtro, quindi non necessariamente sono tutte corrette. Bisogna poi dire che Celle ha una clientela storica, abbiamo alberghi che hanno clienti che vanno da 30 anni ed è più facile magari per una persona che non si trova bene per qualsiasi motivo, per carità, io non dico che non ci si debba lamentare, però è più facile che vengano espresse le lamentele che non gli aspetti positivi che passano nella norma. Ah, questo è un classico, effettivamente. È anche vero che certi strumenti vengono, come dire, utilizzati più in una vocazione, o almeno questa è la percezione che ho anch'io. Ma a proposito di meccanismi, Lorenzo Bruffani, buongiorno, portavoce TripAdvisor Italia, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, come funziona? E naturalmente, vabbè, diciamo per estrema sintesi, commento una località, bisogna iscriversi per lasciare un commento, quindi c'è un'identificazione, dopodiché dice l'assessore non c'è nessun filtro, ma non ci deve essere nessun filtro, insomma come funziona? Ma cerchiamo di fare un pochino di chiarezza, quindi infatti ringrazio questa opportunità. La TripAdvisor è un grande condominio virtuale, tutti possono dire gratuitamente, senza nessuna iscrizione, le proprie opinioni, le proprie recensioni. Questo senza nessuna iscrizione, però per lasciare un commento bisogna registrarsi? No, assolutamente. Io posso decidere di lasciare una recensione senza lasciare nessun tipo di attività. C'è una mia posta elettronica che può essere assolutamente mia personale, trasparente, come molti fanno, anche questo. Ci sono assolutamente molti viaggiatori che ci mettono proprio la faccia e la propria email personale, altri che per la propria privacy preferiscono rimanere... Ho capito, però in questi termini un indirizzo di posta elettronica è obbligatorio. Ieri appunto nell'esplorazione del meccanismo sono arrivato al punto in cui mi si chiedeva appunto una password. Ok, dopodiché si lascia un commento. Si lascia un commento, si può mettere una foto... tra l'altro anche qui TripAdvisor non è solo l'indirizzo di tutti gli alberghi e ristoranti, ma ci sono recensioni sui musei, sugli aeroporti, su qualsiasi cosa che può essere utile a una formazione per un viaggiatore. Ci sono 11 milioni di foto, quindi uno può mettere quello che vuole e racconta la propria esperienza, e quindi questo fa parte del famoso fenomeno del passaparola online. il passaparola online, quindi uno strumento di grande forza, uno strumento naturalmente per definizione virale, uno strumento internazionale, TripAdvisor, qui stiamo parlando di un caso ligure italiano e ci sono state diciamo delle riflessioni in questo senso anche in Emilia, ma stiamo parlando di una rete internazionale. Assolutamente sì, guardi, io tra l'altro sono molto contento che ci sia anche l'assessore al turismo, che saluto, perché Celle è una delle tante gemme della Liguria e personalmente la conosco e ci sono stato. Però sfatiamo un mito: non è vero che su TripAdvisor la maggioranza delle recensioni sono negative. Io ho fatto anche delle indagini con dei dati puntuali e oggettivi. Il caso di Celle è un caso particolare, è una piccola cittadina. Se chiunque di noi va su TripAdvisor trova una decina di alberghi, una decina di bed and breakfast. Il problema è semplicemente, non sono le recensioni negative, che sono poche. Allora, quindi chiunque non conosce Celle o non ha un amico che c'è stato, quindi pensate ai milioni di turisti italiani, cinesi, spagnoli, americani, che purtroppo magari a fatica conoscono la Liguria, non hanno delle indicazioni dirette. Allora, avere un albergo con due recensioni è oggettivamente poco significativo. Quindi noi diciamo sempre, quindi un invito che do ai nostri amici albergatori è di aumentare il numero delle recensioni. Purtroppo a Celle solo 3-4 strutture hanno una trentina di recensioni, dove effettivamente uno può farsi un'idea, scartando magari quelle più estreme, sia in senso positivo che in senso negativo. Si fa la tara e si ottiene una media. Lorenzo Brufani dunque dice: in primo luogo non è tanto il negativo, non so poi cosa ne pensa l'assessore al turismo di Celle Ligure su questo aspetto, ma il numero. Allora, abbiamo con noi anche Andrea Barchesi, che ringrazio di essere qui questa mattina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Andrea Barchesi è l'amministratore delegato di una società che si chiama Reputation Manager, quindi già nel nome c'è un po' l'essenza della questione, quello che è commento e costruzione di una reputazione. Lei come vede, da addetto ai lavori, questa diciamo diatriba sulla rete intorno al turismo e alle destinazioni di vacanze? Ma TripAdvisor non è il problema, ma il sintomo di un fattore ben più importante. C'è una lacuna forte in quanto cercando su Google Celle Ligure c'è proprio povertà di contenuto strutturato, progettato per raccontare il territorio. L'identità digitale di Celle Ligure, quindi, è un foglio bianco in cui una goccia d'inchiostro, come può essere un commento negativo su TripAdvisor, è molto visibile. Quello che dobbiamo fare è riempire questo foglio, riempirlo in modo sinergico, strutturato, raccontare. Insomma, raccontare, io naturalmente l'ho fatto ieri, lo rifaccio stamattina in diretta, Celle Ligure, lei ha detto direttamente farlo su Google, come dire, senza tante vie alternative, e vedo Celle Ligure TripAdvisor nella parte alta, comune di Celle Ligure, Celle Ligure Wikipedia, quindi comune di Celle Ligure potrebbe essere magari il mio primo accesso da turista, da curioso, magari da straniero, e arrivo comune di Celle Ligure, avviso per la nomina delle isole dei conti. Insomma, stiamo parlando dei lavori in corso, e secondo lei, Barchesi, questo è un approccio sbagliato? Questo è un approccio assolutamente incompleto e inadatto, soprattutto poi per un turista che dall'estero deve scegliere una località anche in Italia, perché l'Italia compete anche con se stessa. Di conseguenza, quindi, serve un approccio che valorizzi completamente il territorio nelle sue bellezze. Valorizzare dunque, ma sentiamo anche rapidamente i nostri ascoltatori da Bergamo. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica, Paolo. Salve, io sono un utente, l'ho sempre usato TripAdvisor e altri siti, prevalentemente per viaggiare all'estero, però volevo portare anche la mia esperienza. I miei genitori hanno un bed and breakfast in una zona non tipicamente turistica della Bergamasca, e TripAdvisor ha aiutato con i voti accumulati nel tempo, e vedo che il 90% dei clienti sono stranieri, guardano i voti, lasciano i voti, quindi posso dire che TripAdvisor o sistemi simili, sì, certo, portano anche turismo in, ma assolutamente, sia ben chiaro, questa mattina non è che stiamo facendo il punto, ci stiamo interrogando anche sul meccanismo, perché è chiaro che assistiamo alla crescita di forza da anni, e oggi che è il primo agosto ci rendiamo conto che quando abbiamo oltre 1 milione di persone che stanno riflettendo all'ultimo momento su come utilizzare una settimana di agosto, bene, cosa faremmo? cominceremo magari a dare un'occhiata. Barchesi l'ha detto un momento fa, magari su Google, digitando e vedendo che succede. Grazie a Paolo da Bergamo. Giacinto da Padova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per questa opportunità. Volevo dire una cosa, la tecnologia, la multimedialità, la possibilità di cambiare informazioni in rete, io temo che in Italia sia sempre sottostimata o a volte guardata anche con sospetto. Ho sentito dire appunto che le critiche tendono ad essere maggiori rispetto ai vantaggi. Secondo me no, io uso TripAdvisor nel senso che lo consulto, nel senso che carico dati e informazioni. Quando mi trovo bene noto che insieme con me altre persone ottengono danno queste informazioni. A mio avviso, parlo per gli assessori italiani, a coloro che gestiscono il turismo, invece che criticare, nel senso più bello e più buono del termine, dicendo che occorrerebbe un filtro o qualcosa d'altro, forse farebbero meglio ad ascoltare maggiormente la voce della rete, ovviamente che abbia certe caratteristiche, per migliorare il servizio. L'Italia vive ancora troppo poco di turismo e di queste opportunità. Forse se queste critiche fossero usate, invece che per controbatterle, per usarle al fine di migliorare il servizio come accade in altri paesi europei, forse TripAdvisor potrebbe davvero, insieme ad altri siti, non è l'unico, dare un aiuto ed evitare che i weekend soltanto siano pieni e il resto della settimana sia vuoto. Grazie a Giacinto da Padova. Da Padova ci spostiamo a Palermo. Gianni, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Volevo soltanto dire una cosa che non è stata detta. Su TripAdvisor vengono lasciate le recensioni, però c'è sempre possibilità di replica da parte degli albergatori. Nello stesso commento io leggo sempre delle risposte, quindi comunque questo non è stato detto, ma c'è possibilità di replica. Grazie, grazie Gianni, un ottimo contributo. 8:45 minuti, a proposito di vacanze non solo, anche di ordinario lavoro, visto che siamo a metà settimana, la viabilità, poi torniamo con i nostri ospiti. 8:46 minuti, dunque il diritto di replica, la possibilità di controbattere, di comunicare, che segnalava appunto il nostro ascoltatore Gianni da Palermo. Ancora una telefonata che però ci porta a Camogli. Fulvio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Mi dicono che lei è un albergatore. Io ho una struttura, una maison de charme, sì, una struttura di 6 camere e sono perfettamente d'accordo quando si dice che in Liguria non c'è nessun supporto centralizzato al turismo, i siti sono assolutamente inefficienti e inadempienti, noi abbiamo dovuto fare tutto da soli, noi siamo due pubblicitari per cui veniamo dal mondo della comunicazione, abbiamo realizzato direttamente il nostro sito, l'abbiamo messo sui grandi siti internazionali di turismo specializzato. Se noi prendiamo l'esempio del Trentino piuttosto di altre regioni italiane, la Liguria è assolutamente inadempiente, quindi è probabile che sia vero che per esempio c'è la Liguria che è un bellissimo posto, ci siano molte strutture anche efficienti e che quelle commentate siano semplicemente quelle inefficienti. Però è anche vero che gli albergatori devono darsi una mossa. Fulvio, è chiarissimo, la sentiamo e la immaginiamo in viaggio dalla qualità, se l'orecchio radiofonico non inganna, ma direi che il suo messaggio, appunto per quanto debole un po' la linea, fosse chiarissimo. La ringraziamo. Dunque, Paolo Guastavino, abbiamo fatto un po' un percorso, per quanto breve, ma che sembra abbastanza chiaro. C'è da lavorare, c'è da mettersi insieme, magari c'è da mettere insieme anche il fatto che comuni piccoli da soli magari non riescono a strutturare quello che è appunto un marketing territoriale, una strategia. Cosa ne pensa? Sicuramente, certo, non sono i piccoli comuni, non sono i singoli albergatori che devono pubblicizzare il loro territorio e le loro strutture. Questo qui è un percorso che abbiamo cominciato comunque come comune insieme alla provincia di Savona e alla regione Liguria con l'assessore al turismo Angelo Berlangeri, si sta cercando di migliorare, di far conoscere meglio il nostro territorio, le nostre strutture. Purtroppo è una cosa abbastanza complessa, abbastanza lunga, non è così facile. Noi sicuramente confidiamo in un miglioramento costante per il futuro, e ci stiamo adoperando per questo tutti insieme. Senta, ma mi dica una cosa, lei è andato a parlare, voglio dire, con i singoli aggregatori, questa assenza di una replica, questa, insomma, ne state parlando, immagino la prima reazione è forse quella che è emersa anche in maniera molto esplicita attraverso le pagine dei quotidiani. C'è la percezione che, per quanto questo paese sia straordinariamente bello, ricco, insomma, cose che ci raccontiamo da secoli, ormai non sia più sufficiente, perché se no non si spiegherebbe come alcune località chiaramente meno belle di altre invece abbiano dei flussi turistici più regolari? Ma guardi, flussi turistici regolari, io presumo che Celle l'abbia né più né meno come le altre località della Riviera. Come dicevo poc'anzi, il problema non è legato al territorio cellese o alle strutture alberghiere cellesi, il problema è un problema di economia internazionale, come sappiamo tutti. Per quello che riguarda Celle non è che ci siano dei problemi particolari, e comunque per quello che sono gli alberghi, come ha giustamente detto, è stato detto prima, è difficile fare una valutazione con due segnalazioni su una struttura alberghiera, capisce? Uno può essere positiva, uno può essere negativa, certo, come è stato fatto, e quindi voglio dire... In questo caso, assessore, comunque sono un po' di più. Torniamo da lei tra un momento, chiederei ancora a Andrea Varchiesi. Allora, ha detto sostanzialmente c'è proprio da ripensare, o meglio, c'è da costruire, direi, una strategia, una cultura da Italia Turismo. Sono tanti gli annunci, anche appunto a livello nazionale e neanche recentissimi, sulla costruzione di un marketing territoriale moderno, eccetera. Quanto siamo lontani e magari dove sono dei modelli cui ispirarsi? Ma fondamentalmente in questi casi siamo molto lontani ancora. Internet è una grande opportunità, mentre invece viene vissuta spesso come un pericolo, come un qualcosa da affrontare. Modelli virtuosi ci sono, come già indicato anche in trasmissione, nel Trentino e soprattutto all'estero. C'è molto da lavorare, ma bisogna cominciare a farlo subito, perché il territorio va valorizzato. Ecco, partendo da? Bisogna cominciare subito con il raccogliere tutto il materiale, censire fondamentalmente tutti i punti di forza e cominciare a metterli online con una strategia sinergica. In questo caso, dunque, dimenticarsi il www, diciamo, adesso lo dico, naturalmente è l'esempio di Celle, ma potrei farlo su tutte le città, su tutti i comuni italiani, e fare rete di territori in primo luogo? Partire dal territorio, non partire dall'infrastruttura, ma partire dal territorio, che è questo quello che attira il turista. L'infrastruttura viene dopo il territorio. Ecco, Marchese, una domanda. Tra gli aspetti di questa vicenda che poi sono stati sollevati è anche quello di, diciamo, le pressioni legate, i meccanismi di pressione che sarebbero stati esercitati per ottenere dei commenti. Fuori dalle righe, se io decido di scrivere 100 commenti fantastici o negativi su una determinata località, posso magari condizionare, soprattutto se il luogo è piccolo. Da questo punto di vista, esiste un pericolo reale, a suo avviso, di incappare sostanzialmente in frodi digitali legate al turismo? Il pericolo c'è se consideriamo i singoli canali verticali. Internet è molto di più che un singolo TripAdvisor o altri canali verticali di questo tipo. Di conseguenza, quindi, manipolare tutto internet è molto molto difficile. Il pericolo c'è quindi solo localmente. Pericoli locali in una nazione, in una grande nazione fatta di localismi e di luoghi, appunto, abbiamo questa fortuna, magari piccoli e spesso straordinari. Continuiamo anche attraverso, con il contributo dei nostri ascoltatori, questo viaggio in Italia mattutino. Andiamo a Fermo. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. A proposito di belle località. Grazie. Praticamente io postavo la mia esperienza e poi ho letto proprio due giorni fa, non so se ne avevate già parlato, dell'articolo che sul sito del Corriere, e parlavano proprio del discorso delle false opinioni rilasciate su TripAdvisor. Io porto la mia esperienza perché ho lavorato all'estero in un hotel e so per certo che questo hotel aveva moltissime opinioni positive, e ogni qualvolta non raggiungeva il ranking dei primo, secondo o terzo hotel della città, subito attivava, diciamo, i suoi canali secondari per avere in una settimana una decina di opinioni positive, e quindi risaliva subito le posizioni che aveva. Cioè, lei dice si può dopare anche questo sistema? No, si dopa, cioè tutti si dopa, dopano, ok, cioè. Non si può. No, tra l'altro, io lo so per esperienza perché non l'ho fatto, ma l'ho visto fare, cioè ho visto, so per certo che all'estero lo fanno, perciò se non lo fanno all'estero... Perbacco, non siamo mica gli ultimi arrivati. Grazie Daniele da Fermo. Allora direi, Lorenzo Brufani, quanto si dopa il sistema, cosa ne dice? No, mi permetta solo di fare un paio di punti perché non sono molto d'accordo su quello che ho ascoltato precedentemente, però volevo lanciare intanto una proposta concreta, nel senso che noi come TripAdvisor stiamo già lavorando sul territorio con Confindustria Alberghi, stiamo già collaborando con il Ministro del Turismo e in tutta Italia facciamo corsi gratuiti dal vivo, andiamo presso le Camere di Commercio, presso qualsiasi ente, istituzione, provincia, regione che voglia ospitarci per spiegare agli albergatori e ai ristoratori come funziona TripAdvisor, un po' come prendere la patente. Allora, una proposta che faccio, approfittando appunto di questa piattaforma, è: noi molto volentieri veniamo a Savona, veniamo a Genova a fare dei corsi gratis per spiegare insieme concretamente ai ristoratori e agli albergatori come fare, per le varie ragioni che ci siamo detti prima. Certo. In Liguria ci sono oggi circa 5.000 strutture recensite, cioè alberghi, ristoranti, il voto medio è 4 su 5, quindi se 5 è ottimo, il voto 4 è assolutamente buono, quindi in questo momento TripAdvisor è uno dei pochi ambasciatori del turismo italiano nel mondo. Ci sono 56 milioni di persone in tutto il mondo che ogni mese vanno su TripAdvisor, di queste 2 sono italiani, quindi se c'è oggi una finestra, un'opportunità per poter promuovere la propria struttura, magari se hanno 5-6 camere... E naturalmente la rete, ma Brufani, quindi la rete non si dopa, il meccanismo non è condizionato da fattori esterni o da strategie molto sofisticate che dunque arrivano... Ma io posso parlare per TripAdvisor, quello che noi stiamo facendo. Internet per definizione è libero, quindi i concetti di censura, controllo sono... parole che poco sono in sinergia con lo spirito libero della rete. Noi abbiamo un team antifrode di 70 persone per la verifica costante, quotidiana delle recensioni, però ci sono 50 recensioni al minuto sui 30 siti di TripAdvisor, quindi la mole delle informazioni è impressionante. Però ci sono appunto vari strumenti, ci sono dei filtri, c'è il controllo dell'indirizzo IP, quindi tecnicamente c'è una strategia di difesa perché questo non accade, anche perché chiaramente, visto che abbiamo parlato di reputazione, questo andrebbe fortemente a discapito di questo valore che poi è appunto la reputazione. Andrea Barchiesi, cosa ne pensa? Il nostro ascoltatore da Fermo dice no, chiaramente questi meccanismi sono dopati, lei cosa ne dice? Può accadere, il doping non porta lontano, questo è il consiglio che diamo anche noi quando alcuni albergatori ci contattano proprio per richiedere un po' di doping. Okay. Bisogna essere reali, concreti. Quindi la richiesta c'è, insomma ho bisogno di rifarmi un po' il maquillage, come è una richiesta comprensibile, però lei dice non porta lontano. No, assolutamente no, bisogna essere reali perché le falsità in internet non comunicano, non funzionano e soprattutto creano un brutto circolo virtuoso. Quindi insistere piuttosto sulla cultura, sul cambiamento, su questo strumento enorme, magari avere più siti anche con qualche lingua straniera, perché anche questo nella nostra esplorazione ci siamo resi conto come da una parte c'è chi esplora straordinarie lingue, lo dico con tutto rispetto, ma di piccoli paesi di nicchia, e chi invece magari continua serenamente nella meravigliosa lingua di Dante, che però, visto che la maggior parte dei turisti sono stranieri, in certi casi non è proprio l'unica necessità. Siamo in conclusione, le 8:59 minuti, tra qualche secondo è tempo che Peter Bescape passi la linea a GR24. Noi ci risentiamo naturalmente, grazie a tutti i nostri ospiti e alle vostre telefonate. L'appuntamento è per domani mattina alle 7:20.